Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024, info@siciliaribertaria.it. Iniziamo dai misfatti clericali, in particolare dai privilegi fiscali, dalla stampa del 28 ottobre. Scattano le notifiche dopo la decisione dell'Unione Europea che ordina all'Italia di riscuotere dalla Chiesa. In ballo fino a 11 miliardi non versati. Lettere di allarme della Conferenza Episcopale. Lo Stato ci sta chiedendo l'IMU. Bene. Andiamo avanti. Fine vita. Cappato denuncia l'ASL di Roma. Da Fatto Quotidiano dell'8 novembre. Il caso Sibilla Barbieri. Quindi lottiamo a fianco di Cappato per i diritti di fine vita. Passiamo alla Repubblica del 7 novembre, pagina 20, l'accusa di Sibilla, suicida in Svizzera. Chi non ha soldi, costretto a soffrire. Sibilla Barbieri, malata terminale, morta in una clinica svizzera, ovviamente a pagamento. Passiamo a Rete L'Abuso, ottimo sito internet, ottima associazione contro i preti pedofili e gli abusi vari. Pedopornografia online e sesso con minori, almeno 10 vittime, arrestati animatore oratorio, eccetera. Quindi 8 novembre, quindi massima vigilanza negli oratori. Elisa Claps. Da Corriere della Sera del 6 novembre, proteste per la messa nella chiesa dove fu trovata. Quindi l'ira del popolo contro il clero complice dell'omicidio di questa povera ragazza. Anche Il Giorno del 6 novembre, messa nella chiesa di Elisa Claps, scatta la protesta, è una vergogna. Potenza, nella chiesa della Santissima Trinità, fu trovato dopo anni il corpo di questa povera ragazza uccisa dai preti e loro complici. Passiamo al Fatto Quotidiano del 28 ottobre. Abusi. Svolta del Papa contro il gesuita Rupnik. Nuovo processo, stracciata la prescrizione. Dati diffusi in Spagna, uomini di chiesa, autore di violenze in 44.000 casi. Il manifesto del 28 ottobre, suicidio assistito, a Roma non si può, l'ASL nega il diritto. Il diniego opposto ad una malata oncologica con tutti i requisiti richiesti dalla consulta, ingerenze indirette del Vaticano. Ha fatto vedere in TV vari servizi sulle proteste sul caso Elisa Claps. Leggiamo qualche cartello che si è visto in televisione. Chiesa della Santissima Omertà, vergogna, vergogna. Sulle complicità clerico-fasciste, dal bollettino qui della Comunità Ebraica di Milano, si recensisce questo libro di Marco Ventura, Il Fuoriuscito, e in cui questo Vita e morte di Angelo Fortunato Formicini, l'editore suicida contro le leggi razziali. Ricordiamo che tali leggi furono fatte con la complicità della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, la quale si limitò a chiedere che fossero rispettati i diritti degli ebrei convertiti, e invece furono scaricate al loro destino gli ebrei normali, sia laici sia che continuavano a essere frequentatori delle sinagoghe, e quindi molti di loro morirono di crepacuore, morirono di malattie proprio vedendosi rovinati. Questo qui decise invece di buttarsi dal campanile della chiesa del Duomo di Modena, quindi a significare sia la protesta contro il fascio, sia la protesta contro la Chiesa. Quello era il campanile della Chiesa. Poi il libro di Giovanni Tamburino, Dietro tutte le trame, Donzelli Editore, Roma 2022, l'ho appena finito di leggere. Si parla di questo principe nero Gianfranco Alliata, molto religioso, e ci sono molti spunti sulle complicità Chiesa-fascismo, democrazia cristiana, fascismo, democrazia cristiana e criminalità. DC uguale mafia, ricordiamo uno dei miei cavalli di battaglia, appunto questo, le complicità della democrazia cristiana con la mafia. È uscito il Vernacoliere novembre 2023, segnaliamo nella pagina Nuovissimo Devoti con brio, dove si prende in giro un po' anche le chiese, cristiani, ebrei, musulmani, tre religioni, un'unica grande passione, le armi da fuoco, la piaga della pedofilia, la drammatica rivelazione di Don Te l'Appoggio, a forza di farmi, e mi sono piegato le mani. Sinodo 2023. Da non mollare, quindicinale online, no? E di Francesca Palazzi Arduini, che ricordiamo dei tempi dei meeting anticlericali di Fano, tutte questioni strettamente legate alla grave carenza di vocazioni che rischia di lasciare vuoti gli altari e le sacrestie, speriamo. Questioni legate al discorso focale del ruolo femminile nella Chiesa, estremo invecchiamento del clero, eccetera, eccetera. Insomma, un articolo da seguire. Poi sul sito uar.it a ragion veduta si segnala che ad Arese in provincia di Milano si è festeggiato il 4 novembre senza la solita messa. Bene, torniamo al Vernacoliere con una vignetta: reliquie esposto il cuore di Padre Pio. L'esposizione delle reliquie aumenta molto la devozione, dice un prete, per non parlare del conto in banca. E dice è un altro, no? Un altro prete. Sempre Vernacoliere, famiglia padana, pagina 7, il papa che ride, sicché gli fo, ma te preghi prima di mangiare? E lui mi fa, no, la mia moglie cucina bene. Il papa prega tantissimo. Dopo i mirabili risultati ottenuti con il Covid, il Santo Padre ora si sta concentrando sulle guerre in Ucraina e in Palestina. Vedete che appena Dio trova 5 minuti sistema tutto. Poi si segnala il libro Gesù 2, tutto un altro Vangelo, un libro blasfemo al massimo. Poi mi è capitato questa guida turistica del Belgio sulle terribili disgrazie capitate in questa abbazia di Villers-la-Ville. L'abbazia fu distrutta durante le guerre di religione, depredata e soppressa da Napoleone e dai Giacobini nel 1796. Abbiamo poi, sulla terribile storia della nostra specie umana, altro che creata, altro che amore di Dio, sulle scienze di ottobre, pagina 16, si parla di questa fertile strozzatura. Si fa luce sull'accidentata storia dell'antenato comune alla nostra specie. Neanderthal e Denisova sarebbe l'Homo heidelbergensis. I risultati delle ultime ricerche con sofisticatissimi apparecchi dimostrano che tra 930.000 e 813.000 anni fa la popolazione dei nostri antenati si ridusse a circa 1.300 persone. Ormai altro che 8 miliardi che siamo adesso. Quindi la storia della specie dimostra che non siamo stati creati da alcun dio che ci voleva bene, ma siamo frutto di una casuale evoluzione piena di disgrazie terribili, catastrofi, ere glaciali, siccità, alluvioni, eccetera, eccetera. Sul settimanale 7 giorni del 27 ottobre si afferma: i funerali laici si confermano in forte aumento, sono stati richiesti da molti personaggi famosi. Beh, una paginata intera, c'è anche un funerale rosso, quindi molto bene. Al Teatro Authoff di Milano, dall'11 al 22 ottobre è andata in scena Tutta casa, letto e chiesa, una commedia graffiante appunto di Franca Rame, Dario Fo, e che appunto sono notoriamente defunti. Adesso c'è Monica Bonomi e Tommaso Di Pietro che hanno fatto una buona interpretazione. Poi disgrazie clericali. Ecco, in questa chiesa dirigevano, invece di avvenire chissà quale miracolo, nonostante le reliquie, le preghiere, le messe, l'eucaristia, eccetera, è avvenuta una terribile disgrazia. Questa povera donna impazzita che ha avuto una crisi dissociativa psicotica all'età di 39 anni, entrata in chiesa blaterando frasi sconnesse. I preti hanno chiamato i vigili che nel mentre tentavano appunto di riportare alla ragione, magari con modi troppo bruschi, è morta improvvisamente. Altro che miracolo. Sulle disgrazie clericali, tornando a questa guida del Belgio, all'abbazia di Averbodegasbeck, si ricorda che il 29 dicembre 1942 fu teatro di un terribile incendio e gli edifici furono devastati. Poi il libro della settimana di Zero in condotta, Archivio antifascista, un libro, un vecchio libro del 2003. Forza Nuova, i ragazzi venuti da Salò. Si parla appunto del pasticcio culturale padano-celtico cattolico, figlio di un fenomeno di cristianizzazione della destra estrema e di fascistizzazione della sponda cristiano-padana. E il nuovo simbolo non è più tanto la svastica, ma il crocifisso, come si vede in copertina. Poi abbiamo qualche slogan per concludere. Cittadini, unitevi alle manifestazioni contro il concordato, contro il Vaticano, per una società più libera senza intromissioni clericali, per abolire ogni versamento di fondi statali alla Chiesa. Benissimo, saluti alla prossima puntata.